spaccare tutto. Siamo in tanti e vi facciamo brutto. Sulla ruota lungo tutto il viale, abbronzati con il trifacciale. Quanti booster, quante buste, minchia boh. Con le paste nelle tasche, figa boh. Oh. Ho una gialla che sembra un bazooka nella tuta, minchia boh. Non ti piacciono i club dogo? Minchia ammazzati, figa sparati. Quando arrivo devi farmi passare, perché ho il booster con il differenziale. E tu ti sei preso una bottiglia, ma figa la pastiglia. Minchia non lo sai come ti fa. Tutti in giro col cappello, con il becco, sì. I brillanti nell'orecchio, sì. La faccia lampadata come Patrick e Alexio, oh. Giù il gettone si parte al cinema senza scarpe, oh. Non spegnere il telefono così rompi le palle, sì. Ho una gialla come un cannocchiale. Ho una flotta con me nel locale. Se tu vuoi fare rap ti dico minchia boh. Se chiedi di guai ti dicono minchia al flow. Sono il turbo toro con il disco d'oro, ma resto in giro con loro. Sono militare, sono troppo zarro. Tu non mi imitare, sono militarro. Il professore diceva sempre vai fuori, vai. Il processore che ho dentro è bastardo inside. Minchia. Arriviamo per spaccare tutto. Siamo in tanti e vi facciamo brutto. Sulla ruota lungo tutto il viale, abbronzati con il trifacciale. Quanti booster, quante buste, minchia boh. Con le paste nelle tasche, figa boh. Ho una gialla che sembra